pensato, la piccola da sola. Abbatto. Andiamo, andiamo. 3 euro. Comprendi, sì. Tutto a posto, tanto tutto a posto, perfetto. Tu c'è drummi, tu vuoi che ha bisogno di drummi. Guarda che lo fa con la rete. Voglia. Oggi una gara. Domani buon chiave, tu vuoi scendere? Silenzio. Vuoi scendere dal ghetto, cazzo. Inizia a dire, ti faccio un po'. Quella saluta panoramica, però ha messo pioggia. Arriva una bella giornata, tanto e a Puglia io verso le 7 e mezza faccio la doccia, mi cambio, faccio la cena e poi vado. Ti resta un po' la Costantino stasera. Sì. Allora, è come se fosse domenica oggi, capito? Domani io ne ho 6. Cioè sabato. E domani è domenica, domani è lunedì per festa. E chi anto? Ah, è vero. Sono le giovane. Chi cazzo? Ah? Vai, vai, vi detto. Sì, come avevi detto. Ci compagnia. Siete caldi? Gloria. Sì, lascia già anni a Talio, sì che sta entrando. Lascialo vedere un po' a tutti, vai. Come fa il bambino, poi gli pegni, vai qua, vai là. Via, voglio un casino. Già funziona, io mi sono sganciato. Bel capo, è migliorato. Ma con questo quanto insegnate, cosa fatto? E arrivi forte, tanto, sì, praticamente 9.30. 69, lei piazza da me. Sì, no, ma va sempre bene. Non è difficile. Va alla grande, va alla grande. Finalmente quando avevi voluto. Ecco cosa. La bumera. Sia forte. Certo. Purugli si è dati a partito, ha detto. Un baracchino, Purugli si è dati a partito. Tutti dati a partito. Tutto gli dati a partito. Non è manco. Vabbè, papi, no? Poi via. Faccio un bel... Cazzo, di già come finì di un cazzo, non lascio. Allora, uno, due, tre. Arriva e passa al fondo, no? E via. Chi si chitta, guarda. Vuoi dire che è stracco. Se mi passa al fondo, sta arrivando. C'è d'offre? No, sì, tutto questo. E che ne fai? Signora, preparati. Prendi il matacorno. Va bene. Oh, ma cosa? Ma aspetta, non è roba ora, no? E che è signora? No, non so se è una manuale. Ah. Un'ottica. Ehi. Agenzia funebre. Sì. A che non vuoi scrivere la foro becchina? Ma sicuramente dico si dura tra parte. Ma no, basta che prima aspetti. Un giorno di sera. Ecco. Io non vado paura, no, a becchite. Travaglio vuote tutti, Guarda, me la fita a me. Ma... Tranquilla che domani si parla di Buraetta. No, ma è brava, sono io brava. Sì, lo so, no, se ce l'ho. Non so se ce l'ho incontrato, prima o poi si parla di Buraetta, domani. Tutti. Ma vuoi parlare con quando sei più grande si può fare compresso, va bene. Sei citato la mano. Vuoi dire a Fido la sonorenza? Sì, ma infatti cosa stai dicendo? Ma hai imparato un muro, tu lasciate che imparato un muro a girarsi. Beh. Allucinante. Che regga era. Ui ui. Ma che c'è qui da me lo la domanda, ma che c'è qui da me sa, secondo che giorno è la non è posto qua. Sarà un certo. Break. Avanti già. Buonasera a tutti, non so chi ci sia, c'è già adesso, stavo ascoltando su 40 vetri, dai, adesso sono passato qua. Ciao già. Ciao Luca, e beh chi c'è, tu e lui solo? Ciao, ma lui e Luca, ciao già. E allora Antonio, come va? Bene, bene, lì. Cavolo, mi sono dimenticato, vabbè, io l'ho messo tutte le cose. Ho fatto un karaoke a Tadino, figlio. Perché non mi ha avvisato? Me ne sono dimenticato, perché ho fatto un po' da tutti. Poi, quelle cose, cavolo, che ti circolano la mente, tra la pressa, tra le cose, e dove l'hai fatta? Io sarò dietro, sarò in faccio che l'ho visto, lo mando per primo. Ehi, vabbè, dove abbiamo portato quella cosa? Lì a circolo Ax. Ah, ma fa parte, io sono già Magellano. Ah, ho capito. Ah, sarà anche il pranzo, c'è. Cosa c'è che andrei? Ma niente, ma io. E non sa se la musica in casa che per un bicchiere mi do. Ma, mi trovo il bicchiere. Ma li fa male alle orecchie, guarito. Ah, ma lo metto. Vabbè, ce l'abbiamo fatta anche noi l'altra sera, lui. Che cosa già? La serata del karaoke, Antonio, ci siamo fatti. Ah, hai visto? Sono andato a casa sua e avevo cantato. Mia casino. Me lo impiaco comunque. Tanto complimenti, si sente bene. Hanno cantato tutti. In bianca, ragazzi. Ah, registratili hai. KK. Ha voluto garasciare via. Oi. Sì. Tutte mi dirmi, raga, sarebbe venuto. Cosa? E mi ha mandato Anto. Vabbè, briciola! Vabbè, ruvida! Ui, Luca! Vabbè, Manuè. Tutto a posto, sì. E chi si è a posto? E vabbè, posso andare avanti. Vabbè, buon pulino! Ciao Manuele! Oh, ciao già! Ciao a tutti, non so chi c'è, boh, sono andato così, però non so proprio chi c'era. E siamo noi tre, basta, e poi c'è entrato. Andavè. Stavamo parlando di karaoke. Ah, è bravo a usare il karaoke, Bombolino. Io uso. Ci ho cantato anche con Bombolino. Mi raccomando, portate che non tratto neanche un karaoke, che non è maglia. No, già è ghiaccio elettrico. Bombolino, mi raccomando. Tu dici i due che abbiamo fatto. Chi è? Che pino è? Ma sta di rimaria. Cazzo, roba che mi aggira in carta. A pino ci rimessi. Cazzo già. Cazzo, ma malata a pino, che è un gente di mia cognata. Cazzo, roba di mi aggira, va. Già l'ho visto, sì. Il suo grande padre? Sì. Mauro, se si diverte così, non fa male a nessuno, che male fa? Già, va bene, dai. L'ho visto l'altro giorno, quello, quando l'ho condiviso, ma tu. Cazzo, per carità, non volevo aver visto. Brutto che in questi posti magari venisci chi va di Vinumaro e rompere i capri a tutti. Vabbè, anche lavorando sai. Serve, se non è che serve. Ah, ma fisso. E andare, poi cazzo ti bagare. È buono, dai. Io per 70 euro mi devo fare cazzo per i suoi. Io al tuo per 70 euro mi devo fare 13 ore. Il carosio l'ho fatto anche io una volta. Un servizio abbiamo fatto a smontare le luci, si buffa e balle varie, un palco. Carosio. E non fare queste cose, non fare il togo, che ce la fai, da poi ti voglio vedere che andiamo a fare un'altra che dai, che non la fai mai cazzo una pura di vino. Da poi tu dici che ti domanda un conto. Ah no, da poi vedrai cosa rifaccio con conto. Una volta si può fare, ma fino a uno che trovagliava con me, con la Timmy, proprio la mania di la puzza, con Manuele, gli facciamo alzare tutte le cose pesanti, che si dice, ma che non vi la fai, che tu, ma cosa, che subito io, ma andava a rubigliare, poi non fa l'uedi, gli faccia le bagisce, che tu non comprendi che gli faccia le bagisce. E allora, poi dopo, già te ne accorgi negli anni, già mi so qualche cosa io. E allora? E anche io ho messo qualche cosa a Manuele, a me c'era un autista che mi diceva già appena da 1-1 ribacchi, non fai forse, picchi da voi, tu dici che ti domanda lungo tra vedere si fa via ragione. Me la metto sempre, ogni volta che mi va di male qualche cosa me la metto di chi su chi dizia chi. Ma è così, negli anni dopo ne presenti tutto. Quando iniziava a avere arrivare ai 45 iniziano tutti gli acciacchi. A me mi sono arrivati più tardi, però tutti insieme. È brutto, mamma mia. Vai tu. Niente, mi sono comprato un telefono, sono comunque di foto che non si viene a un cazzo. Ma quando era? No, quando era il karaoke, ieri? Ho capito. Quindi c'era anche da mangiare, vabbè, ma io non conosco nessuno in chi mi ha mangiato, niente che non conosco. Cosa? No, a te già ti conosco, ma magari c'è anche qualcuno che conosco, non lo so. Ma poi non è tanto mangiare, è tanto divertirsi lì, capito? Ma che sale hai portato, no? Ah, capito. Andare. Noi non pensiamo che magari finendo tardi il bambino non l'avessi portato. Ma sei vicino a casa tua. Ma dai, D'Antonio, cazzo si rivecchi. E la roba come l'hai portata? Ah, ti hanno accompagnato. Cava cava, va bene così, dai. Capito? Va bene, Antonio. E prima la famiglia pure queste cose. Avanti. Aspetta già. Stavano delle foto al telefono, non mi posso un cazzo, una giumba è minchia, a 2021 al 2023, cazzo. Lascia perdere, l'altro giorno stavo facendo quella fila, ho mollato perché avevo nove gruppi, mi stava calcarando il dito. Ma ci sono foto che non ci fanno un cazzo. Anche io ne ho. Vabbè. Già. Ne ho tante, infatti un meglio cancellato, un bello, ma foto che purtroppo erano molto importanti, che c'è mia madre di mezzo anche. Sono costretto a cancellarle. Ehi, vabbè, io ne ho un po' con lì, ma non me ne ha fatti nulla, già le cancelliamo. L'unica cosa che vuole gestire dal telefono è pazienza, chi se ne frega. So. Fuori dai coglioni, va, non le fa un cazzo. Quando la gente non merita e basta, e punto, non è lì sul discorso. Non merita, proprio merda, anzi neanche. Miau. È così. Sì, io ho il telefono che è carico di fotografie, ma non sono sue, ne ho un bel da cancellare. Di diversi anni, a cancellarle tutte ci vuole troppo. Cosa vuoi altro? Cazzo, ho perso, ho già due coltelli belli, ho perso, porco cane. Invece l'ho chiamata Natalino perché c'aveva il 3009 fermo, no? Perché gli si è guastato. E c'era uno che stava vendendo il 3009, però che aveva i finali partiti, tutto il resto funzionava. 35 euro, lei si sarebbe preso i pezzi e si avrebbe aggiustato il suo, però non ho fatto in tempo a chiamarlo che se l'avevano già venduto. No, non ha bruciato i finali, si è bruciato il modulatore. praticamente del 3009 era Natalito l'altro giorno. Non hai capito, non si è bruciato il trasformatore, si è bruciato un integrato, però bisogna trovare la causa perché si è bruciato. Inutile che tu metti i pezzi e poi si brucia. Come tu metti quell'integrato, lo brucia immediatamente, perché bisogna trovare un condensatore che ha fatto partire quel finale. E ci vuole uno strumento che costa un casino di soldi. Io ho visto che sono 3009 nata lì, sono radioamatori eccetera eccetera, e praticamente lo stavano 35 euro, cioè va solo i finali bruciati, tutto il resto funzionava. Ho detto magari Natalino se gli servono i pezzi ce li ha, se lo prende si prende i pezzi, capito? Vabbè, e poi se ci vuole questo strumento non lo so, cosa devi fare. Guarda che interessa un Washington, già. Ciao attacco, stavo guardando, non Washington stai dicendo, è il presidente venuto? Ma il presidente lo sto usando adesso, questo qua è il presidente. Capo. Washington non lo so, se sento qualcuno te lo dico, non è che... Però Washington l'ho già avuto, io ho avuto addirittura quello, ce l'ho dato Antonio poi, se te lo ricordi Antonio, quello che ti ho dato io Washington, quello andava bene. Lo stesso, c'ha il suo microfono normale. Quello andava bene, sparava forte, poi non so che giro ha fatto, mi pare che ce l'ha avuto Giulio, ce l'ha avuto coso... Ha girato un bicicletta. È uguale al presidente, è uguale, uguale, uguale. Solo che questo c'ha le bande laterali, basta, non c'ha altro. È 40 canali. Invece il presidente c'ha 80 canali. Il presidente va meglio. Ah, questo c'ha 40 canali solo normale. Allora, mi sa che l'ha avuto... Come si chiamava? Ma... quello che va a la stazione, non mi ricordo come si chiama. E ha girato, rigirato, chissà qui dove è finito, non lo so, se c'era ancora una persona. Comunque andava bene quello lì, era solo da riverniciare perché era un po'... cioè, ma la vernice strana si stava rovinando. E me lo ricordo, era il bip. Ma no, questo bip non è, è tutto normale, non è un bip. Stavo guardando quel Grundig, ma va attacco, gli dissi, tipo Real Viger. Quale Grundig? Quello che c'hai tu, quello base. Stavo guardando quello, però c'ha l'attacco tipo lo stereo della Real Viger. Cazzo qua, se c'è l'altro non ho neanche guardato, ce l'ho sul mobile, neanche guardato ciò. Attacco microfonico. Già ti ho capito. Ce l'hai presente lo stereo della Real Viger, le casse erano con quell'attacco lì. No, cosa si dice, che c'ha l'attacco, mi sembra che c'ha 5 punti, c'ha 5 punti l'attacco. Ma non è attacco normale, vai guarda, allora io l'ho zoomato per vedere l'attacco e c'aveva quello lì, non è normale. Non lo so, vabbè, io tengo solo queste, le altre, una l'ho già data, l'ho data a Antonio Quarrato. Vai! Perché sei col checco? Tutto che cazzo era, buonasera a Toposo. Mamma mia, adesso sei diverso, Grughetto. Puoi camuffare tranquillamente, non si capisce, che noi lo sappiamo, adesso che sei tu che entri così. Vabbè, così la modulazione è meglio, dai. Chi è che è uscito male? No, aspetta, ho sbagliato. Ho messo 10 kg, invece che mettere l'ecco. Non mi ricordo qual è il tasto, secondo. Questo è l'ecco. Questo è il VIP. Allontanarsi dalla linea gialla. Manuele, ma io i pari esempi. Attenzione, Tonino Cavatappi. a Bagni Gianni, detto doppio. Com'è questo checco? Cioè è buono, dai. Cappa, ma molto ripetitivo. Prova. Attenzione, Tonino Cavasacca. No, poi ripetitivo il finale quasi, non tutta la parola. Ma c'è un bel ripetitivo. Tutta la parola. Prova. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, sono ripetitivo tutte le parole. Beh, ma è meglio così. È più fastidioso. Vabbè. Io non me lo sono mai sentito il checco qua. Mi devo ascoltare perché non mi sono mai sentito. Ma non c'è la Manuele qua. Eia. Ogni voce entro io il pareto a mangiare, viene il cane a mangiare. Boh. Manuel. Così da. Antonio. Perché uno sta uscendo. Eia, sta uscendo chi? Attenzione Antonio. Boh. Vincito! E beh, cingolo! Oh, briciola! E beh, tu blu, blu, chiamati tu, dudu! Oh, che bello! Il mondo è mio! Ma non senti questo QRM7,5 già? No! Io ce l'ho! Adesso senti il corretto! Cambio! 1, 2, 3, 4, 5! Tutto quanto elencato, lecchito, licuto. Ai, che bello. Attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Oh, domani è la festa dei madroni. Forse è per quello che lavoro allora. Forse è per quello che ne faccio 14 domani, di ore. Così è. E domani non si deve lavorare, festa, porca miseria. Domani si deve uscire dal bagno, ma che è? Ma per farti il bagno? No, a travagliare, per fare il bagno. Ma te ti si manda la bocca alla rasta, buh. E il lavoro è così, Tony, cosa arriva? Ieri è la poco dollars. Domani sono vicino dove c'è l'acquafan, dove fanno l'acquafan. Devo per andare a Roma a Castelsaldo. A pochi? Nei tornanti, dove ci sei tornanti? Quando deve stare nei tornanti? In mezzo alla campagna. Fanno l'acqua, non chiuso quell'acqua. No, no, è aperta. Hanno chiuso il chilometro oggi. Il pezzo dell'ingresso sino alla rotatoria. Un chilometro? Sì, sì, sì, sì. C'erano le transenne, ambulanza, forse era qualche simulazione, ho pensato. Ma che incidente allora? No, stavo facendo la strada. C'è la polizia. Hanno messo le transenne, deviazione, eccetera, eccetera. Quindi, niente, ho dovuto fare tutto il giro della veloce, ma da Sassari. Ambulanze, macchine, eccetera, ma qualche simulazione ho pensato, perché era impostato più o meno una cosa del genere. Io so che erano chiuse perché dovevano asfaltare. No, quel pezzo lì non è già asfaltato. Praticamente l'inizio del chilometro sino alla rotatoria, che c'è quel ponte che passava il treno una volta, sì là. Tu qua non potevi entrare, lì che uscire, dentro che uscire, c'era le transenne e i cartelli. L'avevano anche messo che per due giorni lo chiudevano per fare l'asfalto. Se l'hanno fatto da poco già quell'asfalto lì, ed è bello bello. Non lo so cosa dirti. Non ho sentito nulla. Invece Piazza dei Segni stanno facendo tutte le visite gratis a chi interessa. Piazza dei Segni, tutte le visite. E cioè che visite? Tutto l'elettrocardiogramma, visita giochi, tutte queste cose qua. Ci sono i tendoni, c'è l'ospedale da campo. Ma che domani c'è? Non lo so, Tony. C'era questi giorni, l'ho visto perché sono andato in macchina, dovevo fare orario perché dovevo andare a prendere Marco al lavoro e niente. E mi sono fermato e ho chiesto, mi hanno detto che praticamente facevano dei controlli gratis, dai, dell'udito, tutte queste cose qua. A me se c'è domani me lo faccio l'elettrocardiogramma, che non è bene vero. Così non sto lì a aspettare 2, 3, 4, 5 mesi a Biallucci. Non lo so, comunque ho visto che è tutto organizzato dalla Misericordia, grande associazione. forse è una delle più grosse di Sassari, perché c'ha tutto, c'ha anche il tre assi addirittura per portare il gruppo elettrogeno grande, ospedale da campo, tendoni, di tutto e di più. Lo so, tu, tu. Però è un'associazione seria. Comunque, a me mi servono 30 metri di cavo R10-48. No, io lo pago, a me sono 30 metri perché devo scendere l'antenna, mettere i tiranti nuovi, allungarla ancora di più e mi serve il cavo più lungo, quindi devo togliere quello e mettere un altro più lungo. Tutto qua, R10-48. Perché metti R10-48 e lo metti un cavo come si deve? Perché non si trova più cosa troppo, capito? Avuto problemi tu di soldi, cosa sai a tirare le longhe? Metti un cavo come si deve e una volta che lo fa lo fai per tutte, no? RG213. No, anche la caviglia, la cacetto puoi mettere. E quanto è il metro? 2 euro. 2 euro, 60.000, dunque 2 euro, 10, sono 20, 60 euro sono 30 metri, si può fare, si può fare. E chi ce l'ha a Sassari? Nessuno. A Sassari non lo so. Vai su internet, lo prendi da internet, fai 100 metri. Cosa, siamo sopramodulati già? Ho detto vai su Google e lo richiedi venditori, cavo eccetera eccetera e te lo dà. Avete detto il cavo RG155, come dire? Quello grigio è. Quello fino? Sì. E il cavo, lo sono pagato molto meno quello che ho pagato io. Vabbè, noi abbiamo fatto, tu dici, abbiamo preso d'occasione, là. Quello era l'H100 poi, quello che abbiamo preso noi, e quello era la 155, e poi c'è l'H1000 che è ancora migliore. Tanto vai, se l'ho preso, buono. E buonanotte. Ma pigliato la fino, no? Se la piglio più grosso. Ma non c'è da una fino grosso, è la calza che conta. Praticamente se è la scarmatura. Quindi bisogna andare a prendere la calza in filo di nylon, che è più buona ancora. No, che poi si smaglia. Vabbè, dai, comunque dopo cerco. Com'era? La Camilla. Vai, prendi il Messi e Paroni, RG213, quello è il migliore. RG213. E però Messi e Paroni, di. La Media Globe lo prende. In continente, arriva subito. Ma che sì, da Talino. Sei tutto leccato, sì. Eravate voi, quello che non lo posso mettere io. Che adesso sono geloso. È per quello che l'ho messo. Bravo Natalino, ciao, ben sentito. Ciao, non ti sporgere dalla linea gialla tu, No, di che poi se l'hai messo il treno. Sì, 200 RG213, dai, peccato che lo Sassari non ce l'hanno, bisogna ordinarlo, chissà, non arrivi, cacca e palla. Subito t'arrivi, Tonì. La internet lo prende e t'arriva subito. Sì, ma però passa da 50 a 100 metri, non penso 30 metri. Tanti di voi ne bigli, se ne vuoi 30 metri, ne bigli 30 metri. Allora faccio così, dai, RG213, aggiudicato, già che ci sono, li ordino anche le PL buoni, con l'anfenol, anziché in plastica. E infatti, fai tutto un viaggio, così paghi una volta solo. Già vende tutto Media Globe. C'è il capo di Rogero, aspetta, entrando in azione qua, va, ho innescato, quando avvicini il microfono troppo vicino, che la tua parlante innesca. Manuele! Ehi, dimmi! Aiù, tu nulla c'hai, cambio di cavo, cavetto, cavino? No, ne cavetto, ne cavone, ne cavetto. Avanti già. Aspetta che mi sto controllando un attimino se lo porto il checco, sì? Se porti il checco? No, ce l'avevo tolto il checco, ho detto. Ah, sì che l'hai tolto il checco. Ciao. E comunque questo qua, questo che ci hanno venduto a noi, perché noi qui alla fine ce l'abbiamo tutti quanti diviso, questo qui va molto bene, ha poca perdita e tutto, è un bel capo. Sì, ma tu capisci a me che se è più grosso il residuo cedutrici ha meno dispersione, quello al 100% si sa, è sempre saputo. E poi a te ti va meglio che tu sei lontano da Sassari, più segnale recuperi e meglio è, no Tony? K, quello al 1000 per 1000 natalizio. Tu, però ci sono i pro e i contro, perché questi cavi grossi poi ti spostano tutti gli strumenti, tutto gatto, perché sono tettari. No, ma io ero già la blocco, metto il palo più alto, voglio, per quello voglio farlo, capito? Metto i tiranti in sagola, perché quello che ho per carità è fare schifo. L'ho preso, ma non andare bene, stanno sfernacciando, si stanno rompendo, non si bene. Metto quelli più buoni. Ne compro 60 metri e sono a posto. E l'acciaio devi prendere il nylon. No, il nylon si scioglie con l'estate, già lo sai, si cremano, non simili. Niente, sempre quelli in sagola, quelli che usano i marinai. E allora prendi quelli, però devi prendere quello più fine, no? Quello grosso. E quando lo prendo da sì va bene, dai. Massimo 8. E già va bene. E i ganci pure ti prendi, la crociera non ce l'hai. La crociera, quando mi scelgo una bella donna vado pure in crociera. Ma cagare, va. Andiamo a cagare. Cazzo, mi dice la crociera, te la prendi? Sì, la nave crociera, cosa prendiamo? La cosa, la... come si chiama? Non mi ricordo più. Quella che Schettino l'ha fatta affondare. Ho visto un video l'altro giorno su TikToki. TikToki? Già, come dire il ciao, un video su TikToki. E chi c'era? Tikitaka. Eri tu. Sono su TikToki. No, io ho detto l'isola che non c'è. Ci sono, andiamo. E uno ti ha scritto TikToki. Kiko, con la TikToki, tu stai confondendo. Guardate il video. Kiko, non TikToki. C'era Gravia, tu mi attori i nomi. E lui ha scritto, posso interferire anch'io? Chi vuole... Ah, è Nesca, già. Aspetta. È Nesca. Io ho detto, chi vuole venire su... Su Kiko era, no TikToki. Vabbè, da, comunque se te lo riguardi già lo vedi che l'hai detto. TikToki ha detto, io non ti ho scritto TikToki. Vabbè, così lo guarderò. Andrà bene, bene Meda. Manuele, anzi no, Natalino che poi perché c'è avanti Natalino. Sì, cappa. Più bello sono così senza eco. Quelli senza eco? Non ti vedo, Natalino. Non mi vedi? Cazzo, peggio per te. Io a te ti vedo a colori. Perché io sono colorato, sono la primavera in fiore. Ah, chi bello. Ioi. Perché c'era anche Luca, bombolino. Luca. Se prendi bombolo, ti giato. Così presto. Io poco fa mi sono mangiato un falcone, un bel finocchio. Era così buono. E io ci mangio mai della pasta al forno. Buona ridere. Ma io ho ravioli invece, quelli rotondi con ricotta e burmelletto di usavera. E zafferano. E zafferano, bravo. Ma ero così buono, ce l'ho anche per stasera, guarda. Ha giovato un pacco. Io quello che temo è quello che quando faccio la pasta al forno me ne ammazzo e dopo mi sono con due di maniera di pasta al forno e mi faccio male. Perché? Quante teglie ne hai fatto? Una teglia, eravamo in tre. Sì, l'ho fatto sempre, 1, 2, 3 teglie, ho fatto il freezer, le faccio da 6 porzioni. E a me una teglia mi basta, ma una a pranzo, una cena e boh. Ma le sono avanzate 3 fette. 3 fette le sono avanzate per dei massicci burro. A te non ti piace infatti, no? No, a piacermi già mi piace, ma so che mi fa male. Una volta va bene, ma è troppo sturpia. Vabbè, uno strappo ci può fare, anzi farò domani che domani è il 1° maggio. Poi oggi è proprio stata una giornata, guarda, gelato e Guido che dà su pacca. Ma tu la pasta al forno come la fai già? Faccio un ragù, poi ci metto la besciamella, una passata di fontina, di quella che vendono anche per le pizze, quella fatta proprio a grano, dimmi. Ci metto quella, normale, e poi il formaggio, uno strato, ogni strato e una besciamella. E prosciutto non ce lo metti? No, la faccio normale, senza prosciutto, è buona così. No. Allora, io prendo già quella precotta, praticamente un attimo metto già il sugo e il formaggio grattugiato, poi ci metto la sfoglia, poi ci metto il nuovo sugo, poi ci metto il formaggio grattugiato, poi ci metto la fontina, anzi no, poi ci metto la besciamella, così, senza mischiare nel sugo, perché è più buona, e poi ci metto il formaggio grattugiato, poi di nuovo fontina e poi di nuovo la sfoglia, e via dicendo. Quando faccio 4-5 piani sono a posto, ma ti dirò un bombò. E dimenticavo, dopo che ho messo io la besciamella, metto anche il prosciutto a fette grandi, capito? Copro tutto quanto la teglia e poi ricomincio da capo, poi dico il prosciutto. Il prosciutto la compro sempre 3 litri, compro io. Ma sono tutte aggiunte, la pasta al forno normale si fa come la faccio io, oppure le altre sono tutte cose che aggiungi in più, ci puoi mettere anche l'uovo sodo, perché io ho letto su internet. Ci puoi mettere uovo sodo, ci puoi mettere anche altre cose. Io con l'uovo sodo non l'ho mai mangiata, però la puoi fare anche in bianco, la puoi fare in mille maniere. Sì, prosciutto, mettere le uova chi le vuole mettere, ma è troppo mattone, io non le metterei mai. Col prosciutto è l'ideale, perché l'ho mangiato anche in ristorante e c'è il prosciutto cotto, e quindi, ma ci vuole quello gran biscotto. L'ho bagnato. Manuele, non ti leccare le baffe che ti vedo. Un attimo che sto aspettando. A te, e avanti Natalie. Natalie. Guarda, il... Non avevo bisogno di nulla. Il ragù, quando ci metti anche la carota, me l'ha tritata fino a fine, ti esce un signor ragù, ma buono a vero. E ricordati sempre, sempre 5-6 foglie di alloro, anche a voi, va bene. Che cosa? Io guarda, mi sono fatto una bella passeggiata al pomeriggio dopo che ho mangiato e ne ho fatto un bel po' di rametti, ce ne sono qua, ce ne un bel. Si mette proprio una fumicata, è buona. Comunque tu, domani mattina dai, scendo giù di nuovo, faccio 2-3 rami belli e te le porto, ti chiamo e così ce l'hai tu, le fai a seccare e poi con le sugo, poi che è buono. E allora buffonetti, e lo che viene un bene di a loro. E K. Gianni, riprendi. Ehi, e comunque sono cose che si possono fare ogni tanto per lui, perché sono cose che si fanno di male, tu. L'ho fatta perché c'avevo le lasagne e ho comprato tutto l'occorrente, c'avevo le lasagne e stava in bozza. Perché adesso in questo periodo qua la pasta si guasta e quindi è meglio farla, se ce l'hai è meglio farla, perché mettere quegli animaletti strani, uia. Una volta mi ha invaso tutto quanto l'armadio, per carità, e nascono così, mi fioriscono così in primavera. L'armadio, perché cosa mette? La pasta al foglio nell'armadio? E allora dove la metto? Dove c'è tutte le provviste della pasta? Non è armadio, no? Quello è... cosa? Con i pinsili? Non è pinsile. Io praticamente avevo il frigorifero incastonato. Quel frigorifero incastonato l'ho buttato via e ci ho messo i ripiani al posto del frigorifero. Ci ho messo i ripiani e ho fatto una... diciamo... dove metto tutta la roba, pelati, olio, tutte queste cose qua, la pasta, capito? E niente, il frigorifero l'ho messo a parte, grande. No, la metto in frigo perché io compro quella fresca, che è morbida, è un bel quadrato di cose, non compro più quella precotta, quella è a striscia un po', che poi la spacchi, no, questa è tutta morbida, ho già. La prendo le rospine ed è buonissima, proprio stupenda, proprio sono dei fogli interi, morbida. Ah, la sfoglia la prendi tu? No, io prendo la pasta della Barilla, quella Barilla prendo. No, io non ne prendo quella lì. Ho notato che quando l'ho fatta sempre con questa e la sento più migliore, buona e tutto quanto, capito? E non sto lì a far rame a pulire fettine per fettine di questa di lasagne. Meglio la pasta sfoglia, come cacchio si chiama. E tiro la moto, ho comprato tre pacchi, mi asciuga. Tu pensa che con un pacco ho fatto anche quasi due vassoi. E giù di un vasso, io vasso di un vasso, no? Qua ti stavo dicendo, ma è larga questa qua, rimane larga o rimane tipo quella barilla come larga? No, no, allora è morbida, tu la puoi piegare come vuoi tu. E dunque, dovrebbe essere sui 20 centimetri, 20 per 30, mi sembra, non me la metto, una cosa del genere, comunque un bel pezzo. Ho capito. Vabbè. Già, comunque già era buona, è piaciuta a tutti, quindi già è andata bene. Poi io non ho limiti mettendo la roba, io sono un po' abbondante come besciamella, come tutto, non la lascio asciutta la pasta. E poi ci metto anche la mozzarella. E mi sa la prossima che faccio metto la mozzarella di bufala, che è ancora più buona, cavolo. Oh, guarda, io ho trovato questa mozzarella, è presente come ce l'hanno i pizzaioli che la mettono sulla pizza, a buste. Ma lo sai che te la fatta a vedda, proprio bella filante, buona. Sì, poi vedo la mozzarella già. L'ho vista alla Lidl, già tritata, come ce l'hanno i pizzaioli. Oltre ho preso un bel pacco, le avevo messo, è uscito buonissimo sulla pizza, poi l'ho fatto la pizza io e ci ho messo con la mozzarella. Me ne era rimasta metà di busta perché l'ho messo abbondante. Dirò che poi non pizza non è più mangiato, me ne sono dimenticato e tirato giù una patta. Invece beh, quella che mi è rimasta l'avevo messa sul vivo fritto, fatto con le cipolle ed era un bombo. Tu ti mangi tutto, ti mangi già. Ti la quella roba, ce la mangi, ti la devi rampare. La recupero, quando è, la faccio qualche altra maniera. Avanti, Emanuele. Emanuele sta affettando. Emanuele sta affettando, e vediamo un po' a chi tocca Lucca. Chiamato anche poco fa, non ha risposto. Natalino l'ho chiamato, non ha risposto. Antonio ha fatto per X. Parlate sempre voi. Cavolo, aspetta un attimo che mi stanno suonando. Aspetta, stanno suonando Natalino. Suonano, vi faccio lavare. Via Sant'Antonio mio, che tu sei meglio. Sì, ecco qua, è dentro. Ah, Antonio, ma l'hai attaccato qui quel microfono? Dirò no, no, no, ce l'ho davanti agli occhi, no, purtroppo no, perché ripeto, non è che sempre lo stagno o la pasta, uno dei due. Che cazzarola, ma cosa arrivo a pigliare un poco di stagno? Già, tu non ci credi, quante volte sono andato da Bricomane, o quante volte mi capita da altri posti, o che la Fusano, me ne metti ghiaccio, mi stesce il gambo. Io mi ricordo tantissimi anni fa, ma tanti, tanti, tanti, sto parlando di 25 anni fa, addirittura dovevo comprare gli stecchini e mi dimenticavo sempre, sino che mia moglie si dimenticava i stecchini, così sono passati anni e anni e non li compravamo mai. Allucinante. E non parliamo dove abitavo prima, avevo primo piano, secondo piano, scala interna, eccetera. Prima di fare la scala interna io dovevo chiudere il primo piano e salire le scale. Ogni volta che apriva la porta va via, allora ricordami che devo comprare il CRC. Beh, così ho venduto quella casa, il CRC non l'ho mai comparato. Grazie, allucinante. E io ho salvato una signora qua col CRC perché non apriva più la porta, bloccata la serratura. Bloccata proprio di quelle serrature, quelle amprose, praticamente gli ho messo il CRC, ho detto aspetti un attimino e vediamo un po' se agisce. Oh, cosa aspettate? Non è meno 5 minuti subito a bici. Meglio così. Natalì, aperta la porta. Eia, Gianni, guarda su WhatsApp. Su WhatsApp. Ti ho mandato quello che ho mangiato oggi. E ieri. No, allora non lo voglio. Se no io oggi ho i raviolozzi, quelli rotondi. Io mi ho fatto la pasta con i frutti di mare oggi. E ieri mi ho fatto la carbonara che resuscitava i morti. Allora domani, adesso che mi hai dato lo spunto, domani a pranzo mi faccio gli spaghetti e i frutti di mare. Gianni, avrà se copia già lì, se lo bazzo pure vai dove. Cosa vuoi, cacciuccio? Commenti? Mi è capata la risa. Ma non vi credi che fosse bazzo la vignetta, Gianni? Oh, signor. Comunque ieri ho fatto questa carbonara, ma hanno fatto anche i complimenti. Ah, no. A me piace la carbonara col guanciale come lo fanno a Roma. Cazzo, io sono andato nel passato e ai ristoranti pigliavo sempre la carbonara. Ti lasciamo questo brudino, questo bello denso, mamma mia cantera buono. Voi sapete benissimo che la carbonara nasce a Roma, quindi. Sì, ma io la so fare meglio dei romani. E c'è questa cremina, oh yeah. E poi ho indovinato anche la minestra che ci vuole, se la mangio con quella minestra di niringhini mutazzi. Ah no, io con i spaghetti la mangio. Come Tony? Carbonara con i spaghetti. Ma le due già. Torti di ore ci vuole. Con i paccheri l'ho fatta. Quanto? Ma tu cazzo, guarda, se tu la vai così, ti niringhi di ridi. E cosa sono i clipaccheri? Sono i tipo mezze maniche, quelle grandi grandi? Che di glossi? Cazzo, ma... Ti niringhi di ridi. A chi tu... la roba... Zitto! Guarda, tutti... Vedi, tu gani me ammazzendi. Oh, yeah, yeah. No, comunque, tutto quanto l'inghippo, ogni pasta è venuta lì, è buona. L'inghippo è fare bene il coso, tra il guanciale, l'uovo e via dicendo. A me me l'ha insegnata un cuoco, ecco perché la so fare. E beh, niente, così la fa mia figlia, la fa, capito? E poi per qualche giorno dico fammela io che non c'è un bel di cane. Gianni sei parato? No, sarà sbevuto. Vabbè, hai visto cosa ha mangiato Natalino? Io mangio, già glielo scritto. E poi Natalino dice, a proposito, sai che stamattina mi sono preso qualche pastuzza da Protonella, che ero di passaggio. Vi aveva detto che sto bene, quelle saranno preoccupate ancora, non mi hanno più visto. Preso due cannoni ho preso qua e qualche bignè, boh. Niente, io volevo andare a Pagoda ma non ci ho voluto andare già, sono dovuto rientrare in fretta, prendere la Protonella, queste piccole paste e andare a correre da casa. A chi devo entrare, cuti a chi, non le budia più. Ma per te l'hai preso per la famiglia? No, per me basta. Tanto è vero, ho giocato prima mangiando il cannone e poi mi sono andato in bagno. E cosa te ne ho mangiato? Sì, ne ho ancora altre due, ne ho. Quelle stasera me le mangio. Allora. Io non ho preso e mangiato, sì. E ieri ho speso 28 euro e ho preso magno, cornetti giganti, cremini. E ora ce lo fritto pieno, caro, Lucascione. E anche io ieri ho preso cornetti, biscotti gelato e cremini. E... niente, il fritto non è più pieno. Ho preso anche i biscotti, sì, poi ho preso anche la coppa del nonno. Adesso l'ho posto, il cucciolotto ho preso. Avanti Natali, bocchi d'otti siamo qui. Sì, lo so. Purtroppo la malattia è quella. La malattia purtroppo è quella, sì. Purtroppo ti faccio bagnare il ciabolo una cosa buona, non li puoi bagnare, allora ti viene veramente la gara. Se non vici una ruda non l'ho recuperato. E infatti è la malattia ma la sorte che ti attira, perché sai che non ne puoi mangiare, cazzo, e allora ti pigli i ribassi, chi tu gianni si piglia i bomboloni. È l'attrazione per il proibito. E vabbè, ogni tanto si può fare, ma io, guarda, prima tu ti giuro, non ne cercavo né di pasta né di niente, proprio noi le prendevamo alle feste, i dolci a casa di mamma, alle feste, compleanni, eccetera, eccetera, però non è che eravamo quelle famiglie che ogni domenica hanno le paste, no, quello lì no, non ne cercavo proprio, non me ne fottia nulla. Adesso, cazzo, non posso passare davanti a una pasticceria, ti mi viene una gara. Mi prende questa chimica che mi viene in gara di mangiarmi tutto. E purtroppo fa così. Ma tu la vuoi fare una bella cosa già? Vai da Protonella, ti compri quattro cannoni e poi te attacchi uno con l'altro, lo fai lo blocco e poi te lo mangi. Già sono male questi cannoncini. Poi ho scoperto un altro che fa le paste piccole, ma buone, balommi, belle, piene di crema, cremose. Quello lì è quello del latte dolce, Masia. E poi ce n'è un'altra ancora, che è quello, il forno del pane, come cacchio si chiama, Cesaraccio, catta che buone di basi di Cesaraccio che sono. Sì, lo so, fanno le pesche che sono giganti proprio. Le ho già mangiate, con la crema, buone veramente. Ma basta prendere le paste vuote. Poi la crema la faccio io, che mi sei trattata io, ma è un bombo. Ehi, ma lo faccio qua, se l'ha fatto tu cazzo quando ci sono già pronte. Con il prontone la sono belle piene, ti esce la crema dagli angoli della bocca, non hai capito, Natalia. È così che sono buone. A te ti piace il cotto e magnato, andato, comparato, magnato, non lo vede più. Ti dimentichi di tutto. Vabbè che l'ultima volta che sono andato non è stato delle migliori, sono stato un mese col dolore alla schiena della caduta. Capita, poi sono attento, vado nei chivi. No, Tony, non so cosa sia successo, boh, mi sono solo girato io. Adesso che abbia inciampato una scarpa con l'altra, che abbia perso l'equilibrio, mi abbia ceduto la gamba, non lo so. Ci sono guvarato come ti un fumo. Vediamo se Antonio è rientrato. Antonio? Natalie. Scusate, c'avevo un QTC qua, che c'ho gente. Ci sentiamo, dai, alle prossime. Va bene Natali, buon QTC, alle prossimine, avanti già. Ehi, anche io stavo chattando con una signorina. Ah, ui, e cos'è? Già una nuova. Ehi, bisogna rimpiazzarsi. No, la nuova no, ci stiamo vedendo, va. Ancora non so niente. Vabbè. In bocca al lupo allora. Crepi. Dai, allora ti lascio chattare, dai che io vado in cucina e mi sa che me la assaggio prima la pasta di protonella. Ma io che ti vado mari. Io questa sera non so cosa mangiare. Mi sa che mi compro una pizza. Va, e mi mangio una pizza. Oh, io le ho le pizze ai piedi. Da chi? Monica me ne ha fatto mangiare troppo. Che capo. Mi metto, domani se vengo la pizza, no, boh, basta, pizza, attaccato al naso. Ma sto venendo? Ogni tanto sì, quando è libera. No, boh, troppe pizze, no, basta. Ne ho la nausea, ti giuro, ne ho le balle piene. Una volta per cambiare ho preso la verdura, quella grigliata. Eh no, 35 euro, due porzioni, ma delle abbondanti, capita, pizzicotto due, che già si attorsola. E di pizza, boh, basta, oh, sempre pizza. Ma io ho fatto apposta, oh, Gabriele, vedete la pizza? Nati, boh, basta, preferisco, guarda, fammi una pasta asciutta, o fammi qualche altra cosa, due bistecche, boh, basta. No, a me già non mi stufa mai la pizza, mi piace, però la vorrei mangiare con i frutti di mare freschi, come la mangio a Porto Torres, qua non ne trovo, ce l'hanno tutti surgelati e non ho sapore di nulla. A me piacciono i frutti di mare freschi. E quando mangio quella pizza lì, mi riempie bene, dai. Un'altra cosa, è ovvio che non vi roba fresca non è più trovare, produttore se sì perché c'è il mare, come lo stesso la trovi roba fresca lì a cosa, Valedoria, ma te si cosa. Ehi, a Valedoria un amico mi ha portato 5 mugini grandissimi l'altro giorno, è andato a pescare con le reti, mi ha abbigliato un boga di roba. Mi ha detto, guarda già che ti sto portando il pezzo, no, sani, ma non mi posso nuda che la sua carasura, non ne mangio il tuo subescio. L'ho regalato tu lì perché non ce la facevo a mangiarmelo, era troppo grande. Ma per dire, il mugino a me non mi è mai piaciuto, la verità. Non è sogocidiato, a me piace soltanto l'orata. Poi molluschi, polpo, calamare, totale. Boh, la che va troppa epina non inviazzi. E con questo l'orata deve essere minimo da 500 grammi in su, se no non ne voglio. Geniato. Io guarda, per il pesce non vado matto, sì lo mangio qualche volta ma non ci vado matto. Quello che mangio il pesce è salmone. Salmone lo mangio volentieri perché mi piace. Però non più di tanto perché ti nausea, perché rimane grasso come pesce, c'è quei grassi che fanno bene al nostro corpo. Niente. E poi il resto, quello che hai detto tu, calamari, gamberoni, tutta quella roba lì, polpi, quella roba lì mi piace. Però i frutti di mare, tutto, cozze, arselle, di tutto e di più. Però il pesce proprio lo mangio qualche volta, ma non è che mi caccia assai. E in effetti sì, il salmone qualche volta lo prendo, lo faccio a fettine fine, metto un filo di olio d'oliva e un po' di limone e lo mangio così buono. No, il salmone lo prendo già a fette, lo prendo a fette grosse, lo faccio l'aglio prezzemolo e limone e poi ci metto un po' di vino bianco sopra ed è buono così. Andrà bene. Io ho trovato, a parte questo, un vinello che io non me ne intendo, l'ho preso per caso, MD, un vinello rosso, frizzantino dolce, ma ti dirò, molto leggero, ma un bel buono. Dopo che l'ho bevuto, poi sono andato di nuovo ai media a compararlo, e non lo trovavo, che ho detto, signorina, guardi, ho fatto anche la foto, questo qua sto cercando. Viene con me a controllare e mi fa, guardi, tutto venduto. E capito, ma lo riporto, sì. Ma lo riporto perché prendo 5 pulli per poco in frigo. Cos'è questo, vino bianco? Vino rosso? Ah, rosso. Ah, io sto prendendo l'ambrusco. Qualche volta lo prendo, ma non sempre. Adesso per dire non ne ho. Ma di solito prendo quell'ambrusco che è leggero, come il vino è digeribile e fa digerire bene, perché rimane gasato. Ma è veramente buono quell'ambrusco dell'Emilia. E io ho comprato l'ambrusco lo stesso, perché non ho trovato quel vino, ho preso l'ambrusco amabile. Frizzantino e dolce. E più o meno il colore è uguale a quello che ho comprato io, però c'è il tappo in sughero, quello di cui io, la bottiglia è piccola, cioè piccola, da 750 ml, capito? Invece l'ambrusco è da un litro e mezzo. Perché il vino stai bevendo tu? E mi sto dando una pazza gioia, mangiando un goccio, ma il dottore che già fa bene, e mezzo bicchiere me lo bevo, capito? E mi dura 3-4 giorni. Ma io lo bevevo quando c'era quella persona e poi, perché lì ne bevevo un bicchiere intero, ma ne bevevo mezzo bicchiere io, un bicchiere lì, e... però poi non avevo più comprato, poi l'altro giorno sono andato, aspetta che lo compro, me ne bevo mezzo bicchiere, a mezzo bicchiere, a mezzo bicchiere e me l'ho finito tutto. Io più volte ce l'ho buttato pure via, perché poi mi passa la gana, a volte mi viene la voglia, lo bevo, sì, 2-3 giorni, poi non ne bevo più, non ne voglio più, poi non lo compro, poi lo compro e oia, come mi salta la mente. E vabbè. Beh, certo, mezzo bicchiere senza esagerare non fa nulla, fa male quando ne bevi troppo, quello sì. Come quello che è andato da dottore, tanto mio figlio, mio marito beveva, è venuto lì per farlo stare meglio, e mio marito è morto adesso, e non ho capito perché. Sì, ma io l'ho scritto, signora, che suo marito è bene, un bicchiere di vino a tavola. Dottor, ma mio marito è falegname, una tavola che mi diamo a darsi il vino. E sarà come quella, aspetta, come si chiamava, me l'aveva raccontato una signora anziana che avevo preso a stintino perché aveva preso il pullman e aveva chiesto un passaggio col furgone della ditta e l'ho presa perché mi ha fatto pena ed era simpatica, faceva ridere, mi aveva raccontato questa barzelletta andando per mangiare, ma non mi viene la parola, aspetta che ci penso. Ehi, già ne so barzellette io, come quei due morti che volevano scappare, lì come scappiamo compà? Ehi, guarda, usciamo nella tomba, come giriamo l'angolo, c'è una moto, la rubiamo e ci andiamo via, ok, e così arriva la mezzanotte, esco dalla tomba, aiuto, e quello, incomincia ad andare nella moto, già vedo su, devo prendere cosa, beh, i due anda, con in moto, arriva Buonamico, aiuto, si mossa, parti, e che moto lo camminava, è mezzo frenata, spago, se me ne succede, vai, si gira, e cazzo la duce, Marco, e anche per la lapide sotto lo braccio, si compa, se si beve le carabine, Marco, il documento viene giù. Via. qui, vieni, che se la... Non te la metti, non te la metti. Non mi nomi tu, già mi verrà. E vabbè, comunque... Ah, ecco, la parola, è regolato. Allora, praticamente... Questo qui, cavolo, che era un bel robusto, è andato dal dottore e gli ha detto lei deve mangiare regolato, se no non scenderà mai. E ha detto va bene, dottore, vedrò di farlo e cosa. E praticamente lo pesava 200 kg, grazie al ritorno, al controllo, e ne pesava molto di più, ne pesava sui 300. Come mai invece che dimagrire sta ingrassando? Dottore, io ho mangiato regolato, come mi ha detto lì, però regolato era lungavato, compreso, si è mangiato lungavato in trio. Il cacchio. Come quella al circo che stavo cercando, un mangiatore di elefanti. Cazzo, si presenta questo nonetto. Desidera, è venuto per quell'inserzione di mangiare un elefante, ma me la smetta, così piccolino può mangiare un elefante, ma va, no guarda, mi metto alla prova, ma cosa sta dicendo, mi metto alla prova, là. Cavolo, lo metto alla prova, cucino un elefante, mi dà il di borsa, tra in poco tempo si mangia tutto l'elefante, aspetta, lo assumo 24 ore su 24, e lui, no, allora fa il nonetto, non ci sto più, perché? Perché io bisogno anche di mangiarmi un panino. No, bella è quella lì. In punto di morte questa donna prende i due figli e al figlio uno sano e uno malato e gli dice al figlio sano ricordati di prenderti cura di tuo fratello, lo sai com'è, portatelo sempre appresso. I soldi ve li sto lasciando, quindi c'hai anche i soldi, non ci sono problemi di nulla, mi raccomando, io sto per andarmene, vabbè, muore la mamma. E il primo giorno questo qua davanti allo specchio si sta tutto imbellettando mettendosi la cravatta e il fratello, come stai andando? E lui, sono andato per la mia ragazza, mi putti. E lui gli fa, cosa ci fai tu insieme a noi? Ricordi cosa ti ha detto mamma? E allora gli vengo a essersi di colpa, se lo porta appresso. Beh, così per 2, 3, 4 volte. E l'ultima volta si stava preparando, lui, dove stai andando? A prendere la mia ragazza. Mi punti. E lui, ricordati cosa ti ha detto mamma. Vabbè, così via, praticamente l'ultima volta che succede, questo qua si incazza e dice, quando dice mi punti, le fa, sono andato a farmela mettere dietro, lui torna subito. E la sapevo già, me l'ha detto l'amico mio quella lì, che si è incazzato, sta uscendo, dove stai andando? Sono andato a farmela mettere il culo, torna a petto. Torna subito. Ok, taga. Vabbè dai, già, che adesso l'ultra vogliuzza mi mangio una pastuzza, mi mangio. Un cagnotto mi mangio. C'è una cremuzza. Dai, ci lascio ti poi mi guardo un pochettino di coso, quello di Parabonulis. E poi vediamo, poi c'è coso Giri Scotti, alle 5. Coso di record. Va bene, lo show di record, va bene. Ok, dai già. Ci sentiamo alle prossime. Buon carica quando lo fai, stammi bene, alle prossime. Ciao ciao. Mi sa che è finito lo show del record. No, c'è anche oggi. Ho visto la pubblicità. Ah, allora ce lo guardiamo. Eh? Io adesso ci porto un po' il cane, anche se l'ho portato alle 5 e ha fatto tutti i bisogni, adesso lo riporto un po'. E capa già le fa bene, dai, io ho fatto una bella passeggiata oggi in quella campagna, infatti ho fatto un po' di alloro, ma non c'è qualche abito da loro, e sono andato la parte di giù, poi sono 13 ettari, e tiro, ho visto parecchi abiti da loro, la ciclazzata, da tappo, il rame, ma come legge in casa, e lo chiedevo sempre a Vittorio, che adesso basta, adesso lo faccio io, e poi fa anche bene camminare, perché non sono mai più camminato, sempre in macchina, e adesso sto imparando a camminare in campagna, così se no che un po' di no, io già cammino ogni giorno, me la faccio la passeggiata, ande e torna, me la faccio e a Puglia, a Potemi, faccio tutto quanto lo stradone, poi scendo da via Prati, ritorno indietro per andare verso casa e mi faccio un bel giro. Tu c'hai il cane, ti viene bene, ti viene automaticamente, invece i miei cani miei sono già nel cortile, fanno tutto lì, capito, non ne frega niente. Io guinzagli non ne ho e quindi niente, ma io se me ne passo la gamba, ma adesso me ne faccio una bella passeggiata ogni tanto e mi fa bene. KK, va bene, tu ne dai, ci sentiamo. Alle prossime, ciao. Ok, ciao.